Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi io vorrei proprio iniziare con una domanda e vi chiedo, se siete genitori, di rispondermi a caldo. Abbiamo il 349-238-6666 oppure il nostro profilo Facebook o 80240024. La domanda che vi faccio è: come sta il vostro bambino? È una domanda classica, no? Di routine, che si fa tante volte per cortesia quando incontriamo un conoscente che non vediamo da tempo. Una domanda da cui ci aspettiamo la solita risposta: anni, classe frequentata, sport praticato. Se siamo un pochino più che conoscenti, un dettaglio sul carattere oppure sulla situazione sentimentale. Sapete che ormai si fidanzano già all'asilo. Forse innamorato, ci potrebbero rispondere. Ma se la domanda la facciamo direttamente ai bambini, come stai? È quello che abbiamo chiesto ad alcuni bambini e abbiamo chiesto anche di dirci, di raccontarci che cosa vorrebbero, che cosa gli piacerebbe fare per stare meglio. Io sono Jacopo, ho 10 anni, mi sento bene, anche se sono un po' preso da troppi impegni, e per stare meglio vorrei che ci fossero meno impegni e vorrei giocare di più a calcio. Io sono Alice e ho tanti amici e mi piacerebbe andare a scuola da sola, giocare più spesso con gli amici. Sì, mi piacerebbe mangiare spesso gli spaghetti, il gelato alla menta. Ciao, sono Iman, sono una bambina che mi piace andare a scuola da sola, mangiare il gelato e giocare più con gli amici. Vorrei che la scuola non ci sia e vorrei che si possa giocare sempre. Però vorrei andare a scuola in bicicletta. Quella vorrei fare pure un intervallo più lungo. Io sono Giovanni, ho 10 anni. Mi piacerebbe che quando vado in giro in bicicletta altri ragazzi non mi prendano in giro. A me a scuola piacerebbe andare in bici, ma non d'inverno. Mi chiamo Elettra, ho 11 anni, vivo a Milano e mi dispiace che non ci siano molti parchi, magari anche da basket. Non mi piace in generale un po' la città, lo smog e tutto il traffico. Ma insomma hanno ragione, no? Questi bambini non chiedono nulla di straordinario, ma solo un po' più di tempo libero, un posto dove giocare, alcuni più grandicelli, un pizzico di autonomia. Noi avevamo tutto questo quando eravamo piccoli. Adesso tempo, gioco, spazi sono merce rara e preziosa. Ne parliamo col professor Tonucci, che è in linea con noi, ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie del CNR e responsabile del progetto internazionale Città dei Bambini. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Voglio presentarvi anche l'ospite che ci accompagnerà per tutta la puntata, che è qui in studio con me, il dottor Terracciano, responsabile dell'ambulatorio asma e malattie respiratorie della Macedonio Melloni di Milano. Buongiorno a lei anche, dottore. Buongiorno a tutti. Professor Tonucci, è strano, più li conosciamo più li emarginiamo, e specie in città facciamo vivere i bambini sempre organizzati, blindati, sempre accompagnati, scortati, guidati, poca autonomia, e quindi le possibilità di fare esperienze anche formative si riduce, si rimanda al momento dell'adolescenza con qualche rischio. Ne avete parlato al congresso della Società Italiana di Pediatria, professor Tonucci, dove lei è intervenuto con una relazione che è stata ripresa da molti media. Sì, devo dire con qualche errore, perché tutti i titoli riportavano questa cifra dell'80% di gioco all'aperto, che io non ho invece. Vede che citato. A essere benessere c'è la possibilità di sottolineare. Ecco, insomma, mi faccia togliere, mi tolgo questa piccola soddisfazione. Esatto. No, siccome mi hanno chiamato in molti su questo, invece credo che i dati importanti erano quelli, almeno dal mio punto di vista, il resto, e cioè esattamente quello che dicono questi bambini. Questi bambini nelle vostre interviste dicono meno impegni, andare a scuola da soli, in bicicletta, un intervallo più lungo, insomma è una... Anche che la scuola non ci sia, ma... Se la scuola che non ci sia, cioè... Però è andarci in bici, quindi questa mi è piaciuta molto. Insomma, mi piace molto quello che avete raccolto e meriterebbe una puntata per analizzarli uno per uno, per vedere dove sono affermazioni infantili che vanno prese con grano salis, ma molte di queste sono delle denunce reali e meritate. E cioè il problema è che le città effettivamente stanno facendo molto per l'infanzia, ma stanno facendo molto senza tener conto delle reali esigenze dei bambini. I bambini oggi, quando sappiamo quasi tutto sull'importanza dei primi anni di vita per le donne e per gli uomini, perché sono proprio nei primi mesi e anni di vita che si costruiscono le fondamenta per tutto quello che succederà dopo, oggi le città li stanno emarginando, chiudendo in spazi a loro riservati, impedendo loro di dialogare con noi. Quindi il convegno di pediatria era "i bambini ci guardano", io dicevo aprendolo: non è vero, perché i bambini non ci possono più guardare, perché stanno da un'altra parte o stanno dentro i corsi pomeridiani che regaliamo loro come famiglie preoccupate, o stanno tante ore nelle scuole, forse stanno a scuola più tempo di quanto i loro genitori stanno al lavoro, stanno davanti a uno schermo per tutto il tempo che rimane. Ecco, questo è il modo di essere bambini oggi, è un modo che non funziona, non risponde alle loro esigenze, perché i bambini così non riescono a giocare, e giocando crescono, e giocando si costruiscono le basi sia cognitive che sociali che delle abilità per diventare grandi. Non giocando non hanno la possibilità di vivere le esperienze del rischio che aiuta a costruire gli strumenti necessari per affrontare la vita. Certo. Professor Tonucci, il progetto di cui lei è responsabile è un progetto bellissimo, la Città dei Bambini. Io vi invito a visitare il loro sito, perché è un progetto appunto internazionale. Dimostra che far di nuovo entrare i bambini e vivere i bambini in città, nel quartiere, è un'idea, un progetto che porta vantaggi sia per gli adulti che per i bambini. Noi abbiamo detto che i bambini più autonomi, i bambini che riescono a giocare, che hanno spazi per loro, crescono bene, ma anche la città, il quartiere, voi l'avete dimostrato, se ne avvantaggia di questa presenza dei bambini che in questo caso potrebbero guardarci. Professore. Esatto, è proprio così, che da una parte i bambini hanno bisogno di recuperare autonomia per poter vivere le loro esperienze necessarie, dall'altra parte la città ha bisogno dei bambini per tornare a essere una città vivibile, una città sana, una città sicura. Noi non mandiamo fuori i bambini perché riteniamo che la città non sia sicura, noi riteniamo che la città non sia sicura perché non ci sono i bambini. Allora, come si rompe questo circolo vizioso? Noi stiamo proponendo in questo progetto la Città dei Bambini, lei ha citato il sito web, è lacittadeibambini.org, sì. Noi stiamo proponendo "a scuola ci andiamo da soli", che è esattamente la frase che hanno detto due o tre bambini da voi intervistati, andare alla scuola da soli, che vuol dire andarci con gli amici, non andarci da soli isolati, senza gli adulti. Noi, questa proposta è una proposta difficile, perché oggi a fronte di un pericolo relativamente basso, come tutti gli analisti sanno e dimostrano per il nostro paese perlomeno, abbiamo una grande paura. Allora, per poter convincere le famiglie a mandare i bambini da soli bisogna lavorare. Noi prevediamo mesi di lavoro con i bambini, con i genitori, appoggiati dai pediatri, per questo ero al congresso dei pediatri, per chiamarli a dare una mano, per essere degli alleati dei bambini, aiutare le famiglie a convincersi che vale la pena avere un pochino di paura quando sono piccoli, per non avere delle grandi paure quando sono grandi. E la scoperta che abbiamo fatto, di cui eravamo abbastanza sicuri, ma che abbiamo fatto in città complesse come Buenos Aires per esempio, è che nei quartieri dove si fa questa esperienza di maggiore autonomia dei bambini, maggiore coinvolgimento sociale dei negozianti, maggiore coinvolgimento sociale degli anziani, i casi di criminalità urbana diminuiscono sensibilmente. Il responsabile della sicurezza di Buenos Aires dichiarava in un congresso nel 2005 che in questi quartieri la criminalità urbana era diminuita del 50%, un dato sconcertante, sconvolgente e affascinante, se volete, perché a costo zero noi abbiamo un miglioramento sostanziale delle caratteristiche della vita della città. Professor Tonucci, io la ringrazio, rimando i miei ascoltatori al vostro sito, qualcosa si sta muovendo. Professor Tonucci, io la ringrazio davvero tanto. Grazie. Buona giornata. Arrivederla. I nostri figli però hanno bisogno di più spazi, più gioco, più autonomia. Dottor Terracciano, hanno bisogno anche di aria più pulita. Andiamo a sentire. In che città vivono i nostri figli? Fatta eccezione per Torino, tutti i nostri centri urbani con più di 500.000 di abitanti vedono peggiorare il loro stato di salute da un anno all'altro. Come si evince dal 16° rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia, redatto da Lega Ambiente con la collaborazione editoriale dei Sole 24 Ore, i fattori di questo peggioramento sono molteplici, dall'inquinamento atmosferico alle carenze del trasporto pubblico, che non riesce ad arginare la massa di automobili private in circolazione, passando per una gestione dei rifiuti che a Napoli e Palermo è fallimentare e a Roma non decolla. E ancora, il costante allargamento dei confini dell'abitato che, sparpagliando sul territorio case, centri commerciali, capannoni ed edifici industriali, aumentano la pressione sull'ambiente e rendono più caotiche e ingestibili le città. Dottor Terracciano, lei ha partecipato di recente ad una tavola rotonda molto interessante all'interno di un convegno organizzato dal Mario Negri, dal titolo Salute e inquinamento, evidenze e timori. Evidenze e timori, sì, perché i timori sono crescenti e sono un mix di timori razionali e irrazionali. Vedere peggiorare l'ambiente come noi vediamo tutti i giorni nelle nostre città suscita sicuramente dei timori, come dire, istintivi, e parallelamente i dati sull'inquinamento e i dati sull'effetto sulla salute si accumulano sempre di più, per cui comincia a diventare una nozione abbastanza condivisa anche per i non addetti ai lavori il concetto che la qualità dell'aria in città sia importante. Tra l'altro, dottor Terracciano, mi ha stupito nella sua relazione il fatto che lei abbia proprio iniziato dicendo i bambini non sono adulti in miniatura. Ecco, questo l'abbiamo già sentito dire, ma lei ha proprio detto che quindi respirano in proporzione più di quanto respiriamo noi, mangiano più di quanto mangiamo noi, hanno bisogno di crescere. Hanno bisogno di crescere. Respirano. E noi abbiamo dei valori soglia che sono parametrati invece sugli adulti. Sull'esposizione media dell'adulto. E io volevo riprendere anche un concetto del professor Tonucci che mi è piaciuto molto, il concetto che il bambino pone le fondamenta del suo essere. È così. Il bambino è diverso dall'adulto e patisce di più dell'inquinamento. Perché respira di più? Un bambino respira nel primo e secondo anno di vita circa 3 volte in proporzione al peso, sì, ovviamente, certo, la quantità d'aria di un adulto. E quindi, però l'impatto ovviamente è su un organismo molto piccolo. Ma non è solo piccolo questo organismo. Questo organismo sta anche crescendo e maturando tutte le sue funzioni. E quando una funzione è in maturazione ed è in crescita, è diverso l'impatto che c'è, perché è più delicato. Faccio un esempio che è banale, ma anche una quercia nasce come un filino d'erba verde. Se lo schiacciamo in quella fase, la quercia muore o viene su storta. Provate a schiacciare una quercia di 5 anni o di 20 anni e non la schiacciate più. Ed è un po' la stessa cosa. Tutto è in divenire, tutto è in crescita, e il danno in quell'età è spalmato su tutta la vita del bambino. E i nostri bambini vivranno molto a lungo. 80, 85, 90 anni è la previsione di vita, per le femmine forse ancora di più, e quindi tutto il danno che hanno avuto nei primi anni è su un organo che deve durare molto tempo. E questo è un aspetto che va considerato. Naturalmente nel corso della trasmissione dottor Terracciano darà dei consigli ai genitori che sono un po', io lo so che mi arriveranno dei messaggi dicendo ma questo lo sapevamo, sono dei consigli di buon senso a cui noi poi forse non siamo più abituati, perché proprio al giorno d'oggi si vuole la soluzione che costi poca fatica, efficace, pronto e subito. Non si può, no. bisogna forse ritornare a fare modificare in tanti piccoli aspetti che sembrano piccoli ma che sono fondamentali, perché messi insieme fanno una differenza di qualità di vita. Noi non possiamo cambiare in un anno, in 5 anni, la qualità dell'aria di Milano o delle altre grandi città. Possiamo avere dei piccoli accorgimenti che, detti, sembrano banali, e quando li diremo sembreranno banali, ma cercheremo un attimo di sostanziarli in modo che poi la sensatezza di questi consigli venga fuori, diciamo. 800 24 00 24, naturalmente, se volete intervenire per dare suggerimenti, per proporre soluzioni, consigli, oppure per fare delle domande ai nostri esperti. Ma io voglio salutare Alberto Fiorillo, portavoce di Lega Ambiente, che abbiamo coinvolto proprio per così darci un po' il quadro della situazione, che avevamo già in parte tratteggiato con la nostra scheda. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, queste città sono, c'era la canzone della Nannini, quest'amore è una camera gas, ma sembra che, no, si possa anche utilizzare un po' per le nostre città. Alberto Fiorillo, abbiamo un chi sale chi scende, un hit parade, io la farei in positivo, no? Perché mi piace guardare anche il bicchiere mezzo pieno. È bello guardare il bicchiere mezzo pieno, anche perché ci si rende conto che in classi dimensionali diverse, ossia centri urbani piccoli, medi e anche centri urbani grandi, possono offrire una qualità ambientale decisamente migliore, magari non l'optimum, sì, non il paradiso, però una qualità ambientale decisamente migliore rispetto invece ad altre località che sono in condizioni disastrose. Quindi, però qualcosa si sta muovendo. Io adesso ho i mercati, lei resti con noi. Mercati meteo, poi di nuovo insieme, con un po' una panoramica delle, possiamo chiamarle, città o centri più virtuosi, o quelli che si sono mossi con un'attenzione maggiore nei confronti dell'ambiente. Naturalmente parleremo anche di alimentazione, perché non c'è solamente l'aria, dobbiamo cercare in qualche modo di rendere i nostri bambini più forti, più preparati alla vita in generale e a crescere bene. 800 24 00 24. Siamo tornati insieme, in linea abbiamo Alberto Fiorillo, portavoce di Lega Ambiente, in studio il dottor Terracciano, responsabile dell'ambulatorio asma e malattie respiratorie della Macedonia Melloni, perché oggi parliamo di bambini di città e bambini in città. In quale città, Alberto Fiorillo, sta andando meglio la qualità dell'aria? Ma io segnalerei una coppia, Belluno e Verbania, sono due piccole città, in parte è un risultato atteso perché si trovano in una posizione che anche geograficamente favorisce un'assenza di smog e anche un'altissima presenza di verde. Detto questo, però, ci sono anche altre città, come penso a Bologna soprattutto, che sono nei primissimi posti. Ora, è vero che ci sono, in pratica potremmo anche dire che ci sono un paio di Bologne diverse, cioè una, diciamo, quella del centro, più lenta, più sostenibile, e poi invece quella più periferica che invece ha problemi come le altre città. Però diciamo che tra le grandi città Bologna sicuramente è quella che se la cava meglio e offre comunque una qualità di servizi che le altre potrebbero imitare. Ok, quindi se lei dovesse dare un voto generale alle città che stanno cercando di rendere la qualità dell'aria più buona, come stiamo andando complessivamente? Allora, noi potremmo dare due voti diametralmente opposti. Cioè, noi potremmo dare un 10 alle città italiane, anche un 10 e lode, se noi immaginassimo di costruire una città prendendo le migliori esperienze che ogni centro urbano sta proponendo, cioè prendendo, che so, l'aria, la qualità dell'aria di Verbania, sì, la raccolta differenziata di città come Avellino o come la stessa Verbania. Insomma, ci sono delle buone pratiche in campo ambientale che, sparpagliate sul territorio, meritano il massimo dei voti. Se potessimo condensarle in una sola città, effettivamente avremmo veramente una sorta di paradiso. Questa cosa, secondo me, però, dimostra anche il fatto che poi la qualità ambientale, senza pensare a interventi da libro dei sogni, sì, è in realtà facilmente raggiungibile, perché in alcuni punti, anche se solo per determinati settori, che siano i rifiuti, l'acqua potabile, il verde, la mobilità ciclabile, è stata già raggiunta. Sì. Si tratterebbe di mettere a sistema i diversi interventi nei singoli centri urbani, realizzandoli tutti contemporaneamente magari, e avremmo città che sono più vivibili per i bambini e conseguentemente più vivibili per tutti. Grazie ad Alberto Fiorillo per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Dottor Terracciano, e noi cosa possiamo fare? Allora, la qualità dell'aria è quella che è. Naturalmente ci sono tante iniziative, ne parleremo, ne parte proprio una oggi a Milano, ma ci sono ad esempio iniziative quasi storiche come Piedibus, i bambini che vengono accompagnati a scuola a piedi da genitori, da volontari. Anche quello è un piccolo, no, contributo per migliorare la qualità dell'aria, ma non solo, rendere anche un pochino più autonomi i nostri bambini, più vicini alle realtà di quartiere, quindi li facciamo crescere. Certo. Ma dottore, le mamme sono preoccupate, molte mamme ad esempio dicono: lo porto in macchina perché con quest'aria si respira tutta l'aria inquinata della città, non sapendo che forse si cade dalla padella alla brace. Dottore. Sì, questo è un aspetto da considerare, cioè non è che l'abitacolo della macchina sia un ambiente dove non c'è inquinamento. Se si pensa anche solo al fatto che il bambino, se cammina su un marciapiedi, ma se ha la fortuna di avere lungo il tragitto delle strade poco trafficate piuttosto che dei percorsi in parchi o in giardini o in viali ampi, ha un'esposizione tutto sommato a piedi senz'altro inferiore a quella dell'abitacolo dell'auto, che è in fila e che prende l'aria a mezzo metro di distanza dal tubo di scarico della macchina che la precede. Ci sono studi sui tassisti, sull'esposizione all'inquinamento dei tassisti, che dimostrano che in base alle condizioni del traffico, e il traffico delle mattine quando si portano i bambini a scuola, lei ne sa qualcosa, perché anche lei accompagna. Sì, anche io sono un accompagnatore, ma uso i mezzi pubblici per opportunità, non voglio fare il virtuoso. E l'esposizione in macchina può essere anche molto superiore a quella a piedi, quindi si tratta piuttosto di individuare tanti piccoli accorgimenti, per esempio un percorso che eviti le arterie molto congestionate. E quando si cammina a piedi è facile fare piccole deviazioni, per esempio. Certo. Alberto ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Anzitutto una battuta sulla questione delle città sane o belle. Ci fu un architetto che disse che le città, per essere valide, sane e belle, dovrebbero essere costruite in campagna. Mm. Vabbè, vediamo un po' se è vero. Poi, sulla questione qua dei bambini a scuola, alcuni anni fa ero in Giappone per lavoro e ho potuto notare una cosa. Posto che le scuole sono sempre al centro di un quartiere, diciamo, sì, dove affluiscono quelli del quartiere con le vie e le strade, posto che loro là non hanno le strade come noi. Sì. Ecco, cosa fanno questi giapponesi? Cosa fanno? Appunto, siccome hanno i ciome, dove non c'è l'indirizzo e il numero di casa, in certe strade a raggiera attorno alla scuola ci sono o le maestre o degli impiegati lì delle scuole con una bandierina in mano, e i bambini sono stati addestrati a uscire di casa, fare quel percorso che hanno imparato, fino alla maestra che è là con la bandierina che li raccoglie, che li raccoglie in gruppo 7-8 e li porta a scuola. Alberto, però anche in Italia, anche il Giappone qui, anche a Milano stamattina è partita una bellissima iniziativa organizzata dai genitori antismog. Siamo nati per camminare. In linea con noi abbiamo Francisca Parrino che ce la racconta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parte oggi questa bella iniziativa milanese, lo ripetiamo, non è l'unica, ci sono altre iniziative, potete andare a vedere alcuni per la città dei bambini, altri il Piedibus. Vi raccontiamo questa che è fresca milanese. Francisca, raccontaci rapidamente. Allora, l'iniziativa si chiama Siamo nati per camminare e abbiamo invitato tutti i bambini delle scuole primarie di Milano ad andare per una settimana a scuola a piedi. Sembra così, insomma, sembra una goccia nel mare, sì, però ogni tanto la goccia incontra qualcuno, ecco. Esatto. Intanto questa goccia comunque ha coinvolto quasi 6.000 bambini quest'anno, che non sono pochi. Yeah. E dall'edizione scorsa, dall'edizione dell'anno scorso, comunque abbiamo avuto un riscontro molto positivo, nel senso che abbiamo visto che tantissimi bambini che hanno partecipato non avevano mai provato ad andare a scuola a piedi o con un mezzo pubblico. Sì. E molti di loro ci hanno scritto che è stata un'esperienza bellissima, che durante questo percorso hanno notato e conosciuto delle cose del loro quartiere che non avevano mai visto prima, oppure che hanno avuto tempo di parlare con il papà o con la mamma mentre camminavano fino a scuola. Insomma, il riscontro era stato ottimo, nel senso che i bambini, con la loro grande sensibilità e con il loro naturale spirito ecologico, comunque hanno così notato e tutto. E poi da cosa nasce cosa, no, dottore? Tante volte i genitori si tranquillizzano che la città non è poi così pericolosa, che i bambini, certo, possono gradatamente, passo per passo, diventare autonomi, un po' meno macchine in doppia fila, perché, esatto, è un classico. Subito un ascoltatore, dottor Terracciana, appena ho iniziato la trasmissione, mi ha scritto: la colpa è di voi donne che volete lavorare, diciamolo, che li parcheggiate dovunque. Egoiste, mi scrive un ascoltatore. Francisca, ti senti egoista? Io personalmente no. Il dottor Terracciano ride, ci facciamo una risata da questo, sì, SMS, sì, perché non ci resta che ridere, ma noi non solo ridiamo, cerchiamo di attivarci, e voglio segnalarvi questa bella iniziativa che coinvolgerà poi i bambini a fermare questa loro esperienza in un disegno, in una cartolina, sì, vero? Abbiamo, Francisca? Abbiamo dato a tutti i 6.000 bambini una cartolina, su un lato potranno disegnare appunto questa esperienza di questa settimana e sull'altro scrivere un messaggio ai milanesi, perché infatti la cartolina è indirizzata a tutti i cittadini, ecco, milanesi. Magari arriverà anche al nostro ascoltatore. Francisca, grazie, quindi buona settimana, buona camminata. Dottor Terracciano, mi faccio un commento da tecnico, non tecnico, sì, naturalmente, ma... Io volevo aggiungere un aspetto importante, un'opportunità che potrebbe essere colta anche dalle autorità cittadine, perché è evidente che un genitore che prende l'auto per accompagnare il figlio a scuola poi va al lavoro in auto, non torna a casa, la lascia e usa i mezzi. Mentre un genitore che accompagna il figlio a scuola e ha lasciato l'auto a casa, 99 su 100 prosegue il suo percorso con i mezzi. Quindi questa è un'iniziativa che di fatto decongestiona anche le aree e riduce il traffico. Anche questa sembra una piccola cosa, ma se si riesce a lasciare l'auto a casa, fredda e immobile, occupa spazio ma non fa altri danni, poi si prosegue a non usarla ed è anche l'inizio forse di un cambiamento culturale. Per chi lo può fare, per l'amor di Dio, non tutti possono farlo. Ci sono persone che raccontano che da quando hanno preso i mezzi pubblici oppure la bicicletta oppure sono andati a piedi hanno scoperto un'altra vita, perché ci sono più tempi, c'è un tempo diverso, si osserva qualcosa, si parla con qualcuno, ma insomma provare per credere. Francisca, ti ringrazio, buona giornata. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Dottor Terracciano, a proposito di traffico, bambini di città, nell'immaginario, anche quando noi eravamo piccoli, no? Il bambino di città era quello più pallidino, più gracilino, quello che non sapeva saltare la corda, arrampicarsi su una pianta. E lasciamo stare questa immagine che comunque, no, c'era ai nostri, sì, tempi, sì, no? Beh, quello è uno di città. Ma i bambini di città quanto rischiano? Bambini di città rischiano in tre grossi ambiti, che però diciamo rapidamente. Intanto hanno un maggior numero di infezioni respiratorie, si ammalano di più perché l'inquinamento tiene i bronchi, il naso, la gola in condizione di leggera infiammazione. Questo favorisce il prendersi le infezioni. Se poi sfortunatamente, ma sono più del 10% dei bambini, hanno anche l'asma, aumenta il numero di crisi, aumenta la facilità con cui viene una crisi d'asma, quindi hanno bisogno di più farmaci, prendono più farmaci e si ammalano comunque di più. E poi c'è un piccolo pericolo strisciante, sembra strano che un pediatra parli della salute di un sessantenne o di un settantenne, ma noi curiamo i nostri bambini, sono i settantenni del futuro e bisogna preoccuparsene. Chi è esposto ad alti livelli di inquinamento per tutta la vita, cominciando da bambino, è abbastanza evidente che ha un maggior rischio di avere poi bronchite cronica da adulto. e quindi c'è un discorso così dell'immediato, di cose banali, della facilitazione di malattie croniche e di un sottile danno che poi si esprime in età adulta. Dottor Terracciano, c'è un'indagine del CNR ancora sulla qualità dell'aria dei nostri bambini a scuola. Non tirano una buona aria in 2 classi su 3 di quelle monitorate in uno studio europeo coordinato dall'Università di Siena e dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Pisano. Le polveri sottili sono presenti in un livello superiore al consentito e quindi insomma i nostri bambini, dopo che li accompagniamo a casa, li rinchiudiamo di nuovo in delle classi, d'altra parte a scuola si deve andare, e anche lì l'aria non sembra di buona qualità. Un'indicazione: basterebbe aprire un po' le finestre, far cambiare aria, poi adesso che viene freddo si ha paura che i bambini, erroneamente, ma è ancora una cosa insomma che si fa fatica, no, a far entrare nella testa dei genitori. Ecco, si è preso il raffreddore perché la maestra ha la mania di tenere le finestre aperte, si è preso un colpo di freddo. Allora, in classe come a casa, queste benedette finestre, in persone che abitano in città, quindi dove l'aria è quella che è, serve aprirle o no? Si rischia che entri qualità d'aria peggiore, il raffreddore, eccetera, dottore? Anche qui un misto di scienza e buonsenso. Chi abita vicino a zone con livelli di traffico molto alti, vicino vuol dire 100-200 metri, ha probabilmente durante il giorno, ma direi certamente durante il giorno, un livello di inquinamento esterno molto alto, e quindi aprire le finestre porta micropolveri, porta particolato dentro la casa. Chi abita lontano da nodi, snodi particolari di traffico ha un vantaggio sempre e comunque, perché le case non sono tutte sane. C'è un problema di qualità degli edifici. Dagli anni 70 in avanti, con la crisi energetica, si è un po' sigillate le case, le finestre non hanno spifferi, i muri sono poco traspiranti. Questo non ha migliorato il livello di salute, lo ha peggiorato, perché si sviluppano muffe, perché rimangono le polveri, perché purtroppo l'80% dei genitori fuma. E anche se tutti dicono di fumare fuori casa, in realtà è dimostrato che il fumatore si porta dietro, il fumatore si un porta po' di sui vestiti tutte le micropolveri delle sigarette e le riporta in casa. Quindi bisogna aumentare, arieggiare la casa. Tutto al più chi vive in zone molto trafficate può farlo in ore in cui il traffico è meno importante, per esempio al mattino presto o per esempio anche la sera. Le malattie cosiddette da raffreddamento sono comunque malattie infettive. Il freddo le favorisce se si è esposti al gelo, ma un sano ricambio d'aria nelle nostre case super riscaldate fa solo bene. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Paola Reverso della squadra antisale. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. E insieme alla dottoressa Reverso e soprattutto in collaborazione con Mario Negri di Bergamo, ogni giorno noi diamo un consiglio per tutto il mese per ridurre la quantità di sale. Questo porta dei vantaggi, proprio parlavamo del buon senso. Ma accantoniamo un attimo il sale, dottoressa Reverso, tra l'altro lei fa lezioni proprio di cucina anche ai bambini. Noi abbiamo bisogno da lei delle indicazioni per rendere, attraverso la dieta, uno stile alimentare equilibrato e vario, i nostri bambini più forti nei confronti di queste aggressioni che vengono dal fuori, questa per in qualche modo renderli meno vulnerabili a questo stato di infiammazione che il dottor Terracciano ha già spiegato in modo molto chiaro. Che cosa gli facciamo mangiare i nostri bambini, dottoressa? Beh, innanzitutto facciamoli bere, perché d'inverno si sente un pochino meno lo stimolo della sete rispetto all'estate, però è importantissimo assumere acqua, tantissima acqua, anche perché le case, come ha detto prima il professore, sono sempre molto riscaldate. Sì. E quindi le mucose respiratorie, mi corregga se sbaglio, devono essere comunque sempre... È perfetto. Perfetto, dottore, e vai. Benissimo. Allora, quindi acqua. Poi gli alimenti. Sì. Allora, adesso parliamo di alimenti. Quindi bisogna cercare di stimolare il nostro sistema immunitario e mantenerlo sempre bello argillo, come dico io ai bambini. Sì. Quindi privilegiare gli alimenti ricchi di selenio, zinco e rame. Questo come si concretizza? Con pesce, cereali integrali, Sì. Uova, latticini, ma anche noci, nocciole, uva, uvetta, naturalmente privilegiando dove è possibile alimenti biologici, quindi meno inquinati, quindi più ricchi di minerali, cotture brevi e dove è possibile anche sempre utilizzare cibi a crudo nel caso di frutta e verdura. Naturalmente il selenio, lo zinco e il rame sono anche contenuti nelle carni, ma io, parlando di prevenzione, la carne cerco sempre di non farla mangiare troppo ai bambini. Ecco, io avrei bisogno anche un'indicazione a testa, proprio veloce veloce, dal dottor Terracciano e poi dalla dottoressa Reverso, una battuta. Adesso arriverà l'influenza, i nostri bambini, come si deve, certo, normalmente si ammaleranno. Dottor Terracciano, una parola, un consiglio alle mamme in ascolto e poi andiamo dalla dottoressa. Due in uno. Sì. Lavarsi le mani riduce della metà il rischio di avere infezioni, non solo respiratorie, in generale, per tutta la famiglia, lavare spesso le mani, bene le mani, starnutire nella manica della giacca, non in mano. Sì, non perché metterla, poi la mano perché si dà, la mano si dà ed è il principale strumento di diffusione. Dottoressa Reverso, una bella sfida, perché il dottor Terracciano è stato molto bravo, vediamo se la cava anche lei. Ma io cerco sempre di usare il buon senso, agisco sempre nella prevenzione. Areggiamole un po' queste case e soprattutto portiamo i bambini all'aria aperta nel weekend, portiamoli in campagna, facciamoli stare fuori. Può darsi che divertendosi, facendoli mangiare correttamente, il loro sistema immunitario sarà e diventeranno grandi, felici e contenti. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Il consiglio di oggi lo trovate sul sito. Dottor Terracciano, dottoressa Reverso, grazie. Grazie. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.